entrata a destra di esse in vista. Entrata di destra di esse in vista. C'è butta stasera che fa una festa. Magazzini generali, maiali, maiali, magazzini generali. C'è busta che fa una festa con i DS. C'è busta che fa una festa con i DS. Con i DS. Ci sono le S, le tette, tutti quanti che ballano per tette. Con le cosce, le locce, flocce. Sono arrivati qua i magazzini generali. Tutti maiali, siete di DS a fare una festa con busta. A fare la festa con Musa, siete DDS a fare la festa con Musa, Italia, siete DDS a fare la festa con Musa, con Musa, con Musa, Italia, Musa, paese popolare, Italia, paese popolare, Italia, paese popolare, Italia, paese popolare. Allora no, vengo qui, ti faccio una serata per voi, che ti piace una serata, lo sai, pezzo di scemo, vieni qua, e sono salvati, e io ti faccio, pezzo di scemo, vieni qua, c'è la busta